Le variazioni di giudizio della duchessa non risparmiavano nessuno, fatta eccezione per suo marito. Lui solo non l'aveva mai amata. In lui aveva sempre sentito un carattere di ferro, indifferente ai suoi capricci, incurante della sua bellezza, violento, una di quelle volontà che non si piegano mai, le sole sotto la cui legge i soggetti nervosi sanno trovare la calma. D'altronde, il signor di Germain, perseguendo un unico tipo di bellezza femminile, ma cercandolo in amanti che cambiava di frequente, non aveva poi, una volta che le aveva lasciate e per schernirle, che una complice fissa, identica, capace spesso di irritarlo con le sue chiacchiere, ma di cui sapeva che era universalmente considerata la più bella, la più virtuosa, la più intelligente, la più colta dell'aristocrazia. Una donna che lui, Germant, era troppo fortunato ad aver trovata, che copriva tutte le sue sregolatezze, riceveva come nessun'altra e garantiva al loro salotto il rango di primo salotto del Faubourg Saint-Germain. Questa opinione generale egli stesso la condivideva. Spesso maldisposto verso sua moglie, era fiero di lei. Se, non meno avaro che fastoso, le rifiutava gli spiccioli per la carità, per i domestici, esigeva che avesse le toilette più magnifiche e più splendidi equipaggi. Infine, della moglie, teneva a valorizzare lo spirito. Ora, ogni volta che Madame de Germant inventava, a proposito dei meriti e difetti, da lei bruscamente capovolti, di qualche loro amico, un nuovo e ghiotto paradosso, subito bruciava dalla voglia di collaudarlo davanti a persone in grado d'apprezzarlo, invitandole ad assaporarne l'originalità psicologica e a contemplarne la malignità lapidaria. Quelle nuove opinioni non contenevano certo, in genere, più verità, spesso anzi ne contenevano meno, delle vecchie, ma proprio quel tanto di arbitrario ed inaspettato che le caratterizzava conferiva loro una sfumatura intellettuale che rendeva emozionante comunicarle. Ma il paziente sul quale si esercitava la psicologia della duchessa era di solito un intimo e gli auspicati destinatari della sua scoperta ignoravano che egli non fosse più nelle sue grazie. La reputazione di incomparabile amica, sentimentale, dolce e devota che circondava Madame de Germant le creava dunque qualche difficoltà a lanciare l'attacco. Al massimo poteva intervenire in un secondo tempo, come costretta, forzata, rispondendo a tono, in apparenza per contraddire, per attenuare, in realtà per rincarare la dose, a un partner che si fosse assunto il ruolo del provocatore. Era questo, per l'appunto, il ruolo in cui eccelleva il signor di Germant. Quanto agli avvenimenti mondani, era, di nuovo, un piacere arbitrariamente teatrale, quello che Madame de Germant provava nell'emettere su di essi quei giudizi imprevedibili che sferzavano con sorprese incessanti e deliziose la principessa di Parma. Ma questo piacere della duchessa non fu tanto alla luce della critica letteraria, quanto basandomi sugli schemi della vita politica e della cronaca parlamentare che io mi sforzai di indagarlo. Poiché i successivi e contraddittori editti con i quali ribaltava continuamente l'ordine dei valori fra le persone del suo ambiente non bastavano più a divertirla, Madame de Germant cercava anche, nel modo in cui dirigeva la propria condotta sociale e rendeva conto d'ogni sua minima decisione mondana, di gustare quelle emozioni artificiali, di obbedire a quei doveri fittizi che stimolano la sensibilità delle assemblee e dominano la mentalità dei politicanti. Com'è noto, se un ministro spiega alla Camera ciò che ha creduto bene di fare seguendo una linea di condotta assolutamente chiara agli occhi della persona di buon senso che L'indomani legge nel suo giornale il resoconto della seduta. Questo lettore di buon senso si sente tuttavia improvvisamente turbato e comincia a dubitare d'aver fatto bene a dare ragione al ministro, vedendo che il suo discorso è stato ascoltato in un clima di forte agitazione e interrotto da espressioni di biasimo come «è inaudito», pronunciate da un deputato il cui nome e cui titoli sono così lunghi, e seguite da reazioni così accentuate che nell'insieme dell'interruzione le parole «è inaudito» occupano meno spazio di un emistichio in un alessandrino. Un tempo, per esempio, quando il signor di Guermantes, principe de Lume, sedeva alla Camera, si leggeva ogni tanto nei giornali di Parigi, sia pure a specifico beneficio degli elettori della circoscrizione di Méséglise e allo scopo di persuaderli che non avevano concesso i propri suffragi a un parlamentare inattivo o addirittura muto, si leggeva «Signor di Guermantes Bouillon, principe de Lume, è inaudito, vivaci consensi al centro in qualche settore della destra, aspri contrasti all'estrema sinistra». Il lettore di buon senso conserva ancora un barlume di fedeltà al saggio ministro, ma il suo cuore è scosso da ulteriori sussulti alle prime parole del nuovo oratore che replica al ministro «Lo stupore, lo sbalordimento ed è il minimo che si possa dire, profonda sensazione nel settore destro dell'emiciclo, provocati in me dalle parole di colui che è ancora, suppongo, membro del governo». Applausi scroscianti, alcuni deputati si slanciano verso il banco del governo. Dal suo seggio il sottosegretario alle poste e telegrafi fa con la testa un cenno d'assenso. Lo scroscio d'applausi travolge le ultime resistenze del lettore di buon senso. Egli trova offensivo per la Camera, mostruoso, un modo di procedere di per sé insignificante. Volendo, qualsiasi fatto normale, per esempio pretendere che i ricchi paghino più dei poveri, proporsi di far luce su una iniquità, preferire la pace alla guerra, gli sembrerà scandaloso, ci vedrà un'offesa a certi principi cui, in effetti, non aveva pensato, che non sono iscritti nel cuore dell'uomo, ma che destano scalpore sull'onda delle acclamazioni che scatenano e delle compatte maggioranze che raccolgono. Bisogna ammettere, d'altronde, che questa sottigliezza degli uomini politici, della quale mi valsi per spiegarmi l'ambiente Guermantes e in seguito anche altri ambienti, non è che la perversione di una certa finezza interpretativa spesso designata con la locuzione «leggere fra le righe». Se nelle assemblee vi è assurdità per perversione di questa finezza, vi è stupidità per assenza della stessa finezza nel pubblico che prende tutto alla lettera, che non sospetta una destituzione quando un diplomatico viene sollevato dalle sue funzioni dietro sua richiesta, ma pensa «se l'ha chiesto lui vuol dire che non è stato destituito», né una disfatta quando i russi ripiegano strategicamente davanti ai giapponesi su posizioni prestabilite e meglio presidiate, né un rifiuto quando a una provincia che reclamava l'indipendenza l'imperatore di Germania concede l'autonomia religiosa. È peraltro possibile, per tornare alle sedute della Camera, che quando cominciano gli stessi deputati siano simili all'uomo di buon senso che ne leggerà il resoconto. Sentendo che gli operai in sciopero hanno inviato una delegazione al ministro, forse anche loro si chiedono ingenuamente «Ah, ecco, chissà cosa si saranno detti, speriamo che tutto si sistemi». Mentre il ministro sale alla tribuna in un profondo silenzio che già predispone a emozioni artificiali. Le prime parole del ministro «Non ho bisogno di dire alla Camera che ho troppo alto il senso dei doveri del governo per ricevere una delegazione cui l'autorità della mia carica mi impedisce di riconoscere qualsiasi rappresentatività. Costituiscono un colpo di scena, perché corrispondono alla sola ipotesi che il buon senso dei deputati non avrebbe mai presa in considerazione. Ma proprio perché costituiscono un colpo di scena, sono accolte da tali applausi che solo dopo alcuni minuti si potrà riudire la voce del ministro, il quale, tornando al suo banco, riceverà le felicitazioni dei colleghi. L'emozione è pari a quella della volta in cui il ministro si è rifiutato di invitare a una grande cerimonia ufficiale il presidente del consiglio comunale che gli faceva opposizione, e si commenta che in entrambe le circostanze egli è agito da vero uomo di Stato. In quel periodo della sua vita, il signor di Guermantes era stato spesso, con grande scandalo de Courvoisier, fra i colleghi che andavano a felicitarsi col ministro. Ho sentito poi raccontare che, persino nel momento in cui si trovò a svolgere un ruolo abbastanza importante alla Camera e si pensava a lui per un ministero o un'ambasciata, egli era, quando un amico veniva a chiedergli un favore, infinitamente più alla mano, si atteggiava molto meno, politicamente a grande personaggio, di chiunque non fosse stato il duca di Guermantes. Il fatto è che, se protestava di non dare alcun peso alla nobiltà e di considerare i colleghi come suoi pari, non pensava una sola parola di ciò che diceva. Cercava, fingeva di stimare, ma di fatto disprezzava le situazioni politiche, e poiché ai propri occhi era e restava il signor di Guermantes, esse non creavano intorno alla sua persona quell'apprettatura di grandi impegni che rende altri inabbordabili. Il suo orgoglio metteva così al riparo da qualsiasi attentato non solo i suoi modi ostentatamente familiari, ma anche quel po' di semplicità autentica che poteva esserci in lui. Madame de Guermantes, per tornare alle sue decisioni artificiose ed emozionanti quanto quelle dei politici, non era da meno nello sconcertare i Guermantes, i Courvoisier, tutto il Faubourg e più di chiunque altro la principessa di Parma, con decreti inattesi sotto i quali si intuivano principi tanto più scioccanti quanto meno li si era previsti. Se il nuovo ministro di Grecia dava un ballo mascherato e ciascuno sceglieva un costume, ci si domandava quale sarebbe stato quello della duchessa. Una supponeva che avrebbe impersonato la duchessa di Borgogna, un'altra dava per probabile il travestimento da principessa di Dujabar, un'altra ancora da Psiche. Alla fine, una Courvoisier che le chiedeva «Da cosa ti vestirai, Oriane?» riceveva l'unica risposta «Ma da niente!» alla quale non si fosse pensato e che scatenava infiniti commenti come indizio dell'opinione di Oriane circa la reale situazione mondana del nuovo ministro di Grecia e l'atteggiamento da adottare nei suoi confronti. Opinione, tutt'altro che imprevedibile, secondo cui una duchessa non era obbligata a recarsi al ballo mascherato di quel nuovo ministro. «Non vedo la necessità di andare dal ministro di Grecia, non lo conosco, non sono greca, perché dovrei andarci? Non c'entro per niente», diceva Madame de Guermantes. «Ma ci vanno tutti, sembra che sarà bellissimo», esclamava Madame de Gagliardon. «Ma è bellissimo anche starsene a casa accanto al fuoco», replicava la duchessa. I Courvoisier non ci si raccapezzavano, ma i Guermantes, pur senza imitarla, approvavano. «Naturalmente non tutti sono all'altezza, come Oriane, di andare contro tutte le convenzioni, ma non si può certo dire che abbia torto se vuol dimostrare che esageriamo a strisciare davanti a questi stranieri che non sempre si sa da dove vengano»,